Claudius. Claudius, dopo mi guardo un po' la cartina, voglio vedermi un po' le strade, le varie distanze da ogni cosa, tipo Isola Rossa, Lubagno, Castelsardo, Valle d'Oria, tutto, voglio grosso modo vedere un po' le distanze. Ok. E le distanze, la cinetta era un attimo curva, perché quella è la panoramica, capito? Una volta che esci da Valle d'Oria è tutto panoramica sino a Santa Teresa, quindi tutto buio, tutto curvo. Se ti immagini io col fiorino ogni 10.000 km cambio le gomme, io avanti, diventano completamente lisce, proprio perché la strada è quella che è, capito? Cappagatta. Vale, la mappa di Tenevari a 9.15 sta arrivando. Canta Natalino ci arrivende. Vai Natalino. E ma io sono con un vatti, però. Sì, ma si assassa il baro. 250 km da Sassari, capito? Questo segnale a volte. 9.15 tutte e due state arrivando. Valerio. Questo vetto segnale tu ce l'hai per abbinare a quella nera grande, della stessa marca, te l'ho detto io. Basta prendere questo, non ti basta un kilowatt e mezzo PEP. Penso che ti batti, no? I segnali cieli HF sono valvolati. Deve schiattare la valvola, cosa trasferizzato per bambini. Bello l'accordo, bello deve schiattare. Io oggi l'ho usato, che c'era in 40 metri, ci cuto una chicchiata, non accordato, ho dato un fischio, giammai mi faccio rovata, mentre un fischietto si è salito più di 1000. Ho abbassato un po' l'ingresso del 756 dell'ICOM, ho dato un 6-700 watt, mi sono fatto due chiacchiere in 40 oggi, ho almeno giusto per farlo scaldare. Vai Marcolino. Uia che caldo, aspetta, è arrivata la pizza qua. Ehi, cosa mi state dicendo? Guarda, sono arrivato credo dopo Punta Tramontana per un bel pezzo, però non ho, mi devo rinnovare internet, capito? Mi sarei messo il navigatore per vedere i nomi delle zone, capito Claudio? Sì, dopo Punta Tramontana prosegui, sempre sulla panoramica, però se giri a destra fai lo scorrimento veloce, se fai la panoramica dopo Punta Tramontana vai ancora avanti, qui dopo Risuledda, dopo la prima frazione Lovagno, capito? Lovagno, poi c'è Castelsardo, entri dentro Castelsardo, esci da Castelsardo, lì dalla Roccia dell'Elefante, capito? A sinistra e fai Valle d'Oria, Santa Maria Coghina, Svidalba, Valesi, Trinità, e poi da Trinità se scendi giù vai a Padoleda, Marineda, Isola Rossa. Se invece giri a destra vai a Vignola, Santa Teresa. Eira. Ma ci potremmo fare una bella gittarella tutti i cibi e mangiare in un locale sulla costa un giorno. Ok, sulla costa, adesso chiudono, hanno chiuso tutti. Ci sono bei chioschi, c'è il Cormorano lì a Padoleta, giù in spiaggia, bellissimo, un bel ristorante. Un grandissimo amico, ci ho mangiato un sacco di volte, sono stati roba di pesce, pesce fresco, lo portano tutte le mattine, però adesso è chiuso, capito? È chiuso proprio domenica ha fatto l'ultimo pranzo, è chiuso, stagione finita, non c'è più nessuno. Tutti a casa al prossimo anno. E beh Valè, cosa buona ti stai cucinando? Marco sta mangiando la pizza. Io sento un bel profumino, però sto aspettando mia figlia che esce alle 8, non so che cosa stiano organizzando madre e figlia. E tu cosa ti stai preparando? Valeria andrà a girare un bollo. Natali, cosa ti ha preparato Concetta? Nulla, io ho fatto la pasta asciutta col sugo dalle polpette, ho fatto le polpette al sugo, cazzo, nomi. No, quindi pasta asciutta con ragù, polpetta al sugo e vamo già in tenda. Va bene, va bene. E calcio per la romana. Mi accoso, a quel pompone, io mi. Grazie, sono andato a cercare un capagliaccio, se 205P. Non ce n'è a Sassarino, nulla. Sorino ha detto non ordina più niente. Il tuo demano la testa ha detto, dice io di questa roba qui non ne vendo più. Ho detto vabbè, allora, ho detto, state tranquillo, ho detto già, non ci faccio più a pigliare nulla. E come ci va venendo? Sono un integrato, sono andato a chiedere a Tonino della GBC, un capaia di quelli auguri, no? Metto che non ordina più, più niente di componenti elettronici. Hai capito? Ho detto vabbè, state così, allora gli ho detto, cosa vuoi dire, gli ho detto, arrangiati. Antone, evidentemente non c'è il tanto, capito? Perché tu mi insegni che i componenti elettronici non ne puoi ordinare uno, devi ordinarne minimo, per dire, 50 di ogni serie, e se non c'è il tanto, e poi tu mio, fatta lì da maniera, no? Io vuoi, tu vuoi più ciambà, tu... è fatta da gatto oramai. Sì, vabbè, sono accorto. Adesso tu, me lo ordino su internet la roba e pazienza. Altro non posso fare. La fa qui. E Antonello la Fusara non ne ha? No, non ce l'ha, ho trovato un 1969 ma non so se funziona. 3 euro qualcosa l'ho pagato. Vabbè, prova, l'attenzione è giusta quello lì, diciamo 69, è diverso. Sono ancora piazzato, ma l'ho comprato solo poco fa, sono appena rientrando. Ho chiesto se c'era il capaia, mi ha detto che non ne aveva la Giovanna e basta. Adesso vediamo un po', come faccio un giro a cosa, da Portobello, mi cerco qualche baracchino a pezzi e lo stacco da lì e va a fanculo a un certo punto. Tutto deve stare a girare, culo, prima pigliavo e regalavo i baracchini per pezzi, adesso non regalo più niente, quando c'è qualche baracchino così, mi tengo i pezzi io, me li stacco da lì e ho fatto l'operazione. Tocchi avanti, infatti, per vedere se sta venendo a cena. Va bene, vale. Se senti a Gianni Capri, diglielo. Non ne ha baracchini dismessi, perfetti, capito? Magari c'ha qualcosa che ti può essere utile. Io non ne ho tanto, se no li ho usati della vita di tu. Mi viene a prendere adesso, te l'avrei portato. Ma no, baracchini vecchi non ne ho più. Ho lavorato tutto a Gianni, anche baracchini non funzionanti, che se li doveva riparare, poi non so se li ha riparati. Se ce li ho ancora in garage, capito? Non so niente. Ciao Valè, ci sentiamo domani. Ciao Valè, ciao, ci sentiamo alle prossime, a domani. Avanti Natali. Non lo so se mi sente Valerio, salutamelo tu. No, ha detto non ti sente, ti saluta Natalino Valè. Ok. Ciao, ci sentiamo, dai. Marco, finito di mangiare, ti si mangia i gucciucci. E lo gusta? No, ancora no. Ciao Valerio, buona cena, buon tutto. È entrato anche Gianni Claudio dalla macchina, solo che poi non ha più ripreso. Gianni doppio? Eia, eia, eia. Pomponio, dove eri nel pomeriggio? Ah, a cercare il pizzo, sono andato, non venuta la carità, guarda. Sono uscito per quello, me. Ciao, comunque Marco, ben sentito anche a te, Valerio, saluto anche a te, buon corretti, eccetera, eccetera. E Marco, sono andato a cercare il pezzo, della Torino, mi ha risposto poco fa, nulla, non ho dirà più niente, e basta. Fusaro, non è, sta a Paia, non ce l'aveva, integrato audio. L'unica cosa che ho preso, 1969, la signora Giovanna, e basta. Speriamo che funzioni, se no sono fregato. L'ho preso per il coso, per cambiarlo nel Connex 4000. Io pensavo che fosse 2166, invece era 1969 quello che scalda. Ma te serviva il prefinale? No, c'ho tutti e due, io tutti e due adesso. Mi manca solo adesso l'integrato audio di un baracchino che ho io qua, che mi hanno regalato, capito? Ma lo volevo sistemare. 40 canali e in pratica mi serviva un barchino per pezzi, ma un barchino sfasciato, non voglio un apparecchio intero che si possa riparare, non ne fate nulla, un barchino solo per pezzi, magari che gli manca il commutatore dei canali, non ne fate nulla, ma se riesce a per integrare il suo audio che sia perfetto. E qui tutti quei barchini che c'hai non ne hai neanche uno, chissà ricordi, peggio di me. A voi non dicevi, non mai. Avevo tutte le galattiche, cazzo. Fa un culo a me, sarà del saputo, non la galattica. Avevo tutte le galattiche, quando c'era uno mi chiedeva un pezzo, andavo a dire la c'era l'apparecchietto, vai e staccatelo. Che vedi? Non bisogna regalare niente, perché quando ti serve la roba poi non ce l'hai più. E infatti sono rimasto inchiappettato, capito? Una fanculo a me. Vabbè, riprendiamo un attimino che sto facendo una cosettina veloce, gli arrivo subito. Sì, fai. Già va bene. Cosa stavo dicendo? Vabbè, tu ci mangi niente, ti ci mangi ai cucciucci, ti ci mangi. Ti prendi in altro lì. Oh, sarà che avevo fame, ma la pizza mi è sembrata veramente buona. Pizza e, sai, surgelati. Buona. Poi ho chiamato disparatamente a più riprese, tornando da là. Un PMR, ma zero totale. Zero totale perché erano su 20 poi. Se ti mettevi il baracchino a macchina, magari ti avrei sentito. Sì, sempre un chiesto BMR, tutti. Non è che se lo avevo gomma su BMR. Ma la pizza, cioè, surgelata, l'hai scaldata e te l'hai mangiata così, non te l'hai condita? Non mi hai aggiunto mozzarella, capperi, acciughe, niente? No, era già condita, era una pizza al prosciutto e non so cos'altro. Ma era veramente buona, sai, avevo fame, proprio, perché quando non esco, quando sono a casa fame non me ne viene tanta, ma quando prendo aria fuori, no? Quando esco all'aria aperta mi mette più fame. No, anzi gli ho detto a mamma, non condire nulla, le pizze le voglio nature, come escono dal negozio, perché una volta ci ha messo capperi, acciughe, una marea di sugo, era anche insomma che vuole, troppo condita. Sì, mi ha soddisfatto, anzi me ne sarei mangiato anche un altro pezzo. No, dicevo che tanto anche col baracchino non ci saresti stato. Verso le 5, sì, non c'eri, sei tornato un altro tardi, no? Eh sì, ero a casa. Sì, un quarto. Guarda, prima che cambi l'orario mi farò una bella uscita lo stesso. E mi porto lu baracchino, forse anche col linealetto. Così mi sentite anche da lontano, cari. Ma infatti già c'avevamo l'impianto, tu basta metterlo in macchina. E così facciamo anche qualche prova, non c'è problema. Bisogna sentire a Gianni a vedere se volete andare venerdì. Capito? Perché io poi sabato non ci sono. Sono fuori sabato. Capito? Fuori. Non so neanche se andiamo. Andare fuori, non lo so, però per venerdì se volete andare a mangiare la pizza io sono disponibile. Ehi, va bene, ne parleremo con Gianni. Poi per la pizzeria vedete voi, è che io avrei voluto provare San Gabbino proprio perché mi avete detto che si mangia bene, quindi... Però mi fa benissimo anche il lucernaio, mi ha detto tra noi, è anche vicino, non dobbiamo nemmeno uscire dal Sassari. A me di San Gabbino me ne ha fatto uno perché ci spellano. Ok, lucernaio va benissimo perché c'è anche la Fainé, adesso la fanno molto buona, quindi possiamo prendere pizza e Fainé e siamo a Sassari. Giusto così per evadere un paio d'ore, niente di che, non è che dobbiamo stare sino alle 2 o 3 di notte in giro, così. Come abbiamo fatto l'altra volta, andavamo tutti a casa, è più che sufficiente. Se volete andare, basta dirlo, si può andare venerdì, capito? Perché sabato mattina non ho impegni, quindi non ho problemi, però sabato sera sì. E quindi non posso andare se la volete fare di sabato. Di venerdì sì, capito? Ci ritiriamo presto, anche se già ne lavoro, anche io sono impegnato, quindi devo alzare presto. Però, insomma, quando ci rientriamo a mezzanotte è più che sufficiente. Sì, ma infatti, sembra che ci ritiriamo alle 2-3 di notte. A mezzanotte siamo già a casa, e quando vai lì alle 9, si ha voglia di mangiarti la pizza. 3 ore sì, dalle 9 alle 11 ha voglia. Quindi non compromette l'orario di lavoro di Gianni, per dire. E io ho detto, ci sprendiamo tutti questa volta. L'unico sobrio ci accompagna a casa, eh? Cotti persi, ci beviamo una caraffa di vino a testa. Dico, un'altra volta. Cosa ci abbiamo bevuto? Anche la fettina di vino, di quello, bianco, che è acqua. Cos'è? E poi una o due bottiglie di birra. No. Non siamo bevitori noi, non Marco. Ma va bene così. Io quando vado in pizzeria con chiunque, anche con i miei, con amici, con mia moglie, eccetera, io faccio sempre un quartino di vino bianco, perché birra non è bella, mi gonfia. Un quartino di vino bianco, quindi un quarto, donna è una gazzosa, figurati, ce la butto dentro, e dopo un vino gazzosa, come ti dice Beve di Eva, ma vino bianco, leggero, quello, capito? E basta, e boh, poi è finito tutto. Se sono in compagnia, magari a Montenegro me lo ciuccio. Ciao Fra, beh, Montenegro me lo prendo anch'io, a occhi chiusi, è buonissimo. A me mi pare sia un po' ubriacone tu, Marco. No, non ho i geni di mio zio, per fortuna. Non ho i geni. Ah, però ogni tanto bisognerebbe abbigliarsi a una sbronzetta, leggera, così, tanto da renderti allegro. Vero, Natalino? Io vorrei vedere Natalino ubriaco. Natalino, appena non beve. Ciao, Marco Fra. A casa io me lo dico, ma niente, 2-3 tazzi di vino ruvido, ma in pizzeria non fa, perché puoi riguardare, no? Non è più fattibile, no? Capo, ciao Flavio, ciao Tino Calino, ciao Marco. Io sono sempre, non mi manca, è rosso, a tavola c'è sempre, ma non vino di cantina, vino proprio fatto da noi, dai. Buona. Va bene ragazzi, sono andato a salutarvi perché sto scendendo a mangiare, facilmente. Ci sentiamo per le prossime, dai. Ciao Claudio, buon pranzo, buona cena quando la farete. A tutti, ci sentiamo. Ciao Claudio, Natalino e Marco. Avanti a te ancora Claudio, mi fai girare. Ciao. Ciao Fra, frate cosce belle. Buona cena anche a te, famiglia. Ci sentiamo alle prossime. Vai Natali. Ciao Fra, alle prossime. Eia, ciao Franco, buona cena, buon tutto. Eia. Sì, ma si può fare. Poi la Fainé, caspita, è buona anche quella. Mamma mia. E c'è sempre il dilemma, mi, quale pigliare, Fainé o pizza? Perché io sono molto per la pizza. Però la Fainé, caspita, può attirare. Può attirare. È buona anche quella. Allora solo per la farne buona. Qua a San Donato mi c'è uno che fa questa fanie spettacolare. È buona minata lì, quella del lucernaio, tu non ci sei venuto lì, noi siamo andati un po', c'era anche Edi, un po' di gente. È buona, eh? Prendiamo come l'altra volta, Marco. Due teglie di fanie per iniziare e poi la pizza. Come abbiamo fatto, ti ricordo, patatine fritte e tutto, si sta bene lì, lo conosco, il proprietario, capito? Andiamo, non ci diciamo a Gianni, e lì siamo tranquilli che con 15 lettere a testa mangiamo bene, a San Gabino ci spendono, ma minimo ci vuole 30 euro a testa, scendere, salire, benzina, destra, sinistra, non fa, capito? Per me non ci sono problemi, ma per voi che non state lavorando è una spesa inutile, capito? Mentre qua invece siamo a Sassi. Sì, infatti, andiamo al lucernaio, basta dirglielo a Gianni e andiamo in Chivi. Tanto è solo per stare insieme, non è che dobbiamo andare per forza a San Gabino a farci spennare. Io già ci andavo con Gianni, con mia moglie, sono andato tantissime volte. Però in Chivi ha ragione Claudio, si spennano. Eia. Io ho 50 euro disponibili. E ando lì prendi dezzi, ho 20 andavo ero mazzessi. Cosa non si mangia tutti i 50 euro, no? Sì, vero Farino, hai ragione. Guarda, io sono andato una volta con mio fratello, avevamo una decina a San Gavito. Una decina. Perché mio fratello c'è sempre variato, prima la pita, inizia, porta un po' di salsiccia, porta un po' di formaggio e faccio due tegliette di patatine fritte, poi io ho tutti gli amici, ho fatto lo stesso, birra non ne bevono, quindi bevono vino, con la pizza, due o tre caraffette di vino bianco, la gazzosa e quello, l'aranciata, acqua, poi pizza, poi sai le donne, il dessert, il caffè, la matta caffè, bimumba, ci è uscito un conto, allora, che poi eravamo proprio 10, ci è uscito un conto di 170 euro. Ma dove? San Gavino? Sì, a San Gavino. Beh, se eravate in 10, cosa vuoi che sia? Sono 17 euro l'uno, non è assai, no? Se non ho mangiato nulla, ma io già non ho portato niente, io. Perché eravamo in 10, 17 euro a testa. Capito? Io sono andato da IVA, da IVA, che ci vuole più andare e tornare, in benzina, che è quello che ho spesso. Io e mia moglie, ma pizza di Arugiai, pizza, il patatine fritte, prima era pizza, infatti mia moglie non se l'ha mangiata tutta, se l'ha portata via perché adesso ho fatto il cartone, l'IVA se l'ha portata via. E poi abbiamo preso, forse sei adas, non mi ricordo che cosa. Io caffè non li ho voluto, mi ha portato un sorbetto, mia moglie gelato, che è là, 22 euro, in due. Diga, guarda, tanto so già quello che prenderò, se ne ho lucernaio, cioè quello che devi pagare alla fine è il coperto, per me una Coca-Cola, una pizza, di tipo, me fai 10 euro, la pizza, ma proprio... cedendo e spendi poco ed è anche vicino, vado a piedi, io salgo a piedi. Ti ricordi quando siamo andati, abbiamo speso 15 euro a testa, abbiamo mangiato un bel, lì mi piace perché è un bel locale pulito e poi c'è la Fainé, capito, quindi prendi la Fainé, la Fainé, la pizza, cioè, giusto così per stare un po' di ore assieme. C'erano Valerio, tu Gianni, Valerio, Natalino, e un po', ma viene anche Massimiliano, lui sa la mattina non lavora, mangia la Fainé, che lui pizza non ne mangia. Sandro, insomma, facciamo quelli che avevamo l'altra volta, capito? Sì, sì, poi se vuole venire Pomponio, è che lui si berrà più birra che roba da mangiare, si mangia. La gara si appoggia la birra. Adesso oggi mi sono sentito con Stefano, adesso arriva anche Stefano che anche per lui la stagione è finita, sta facendo alcune cosette, poi termina, quindi magari c'è anche Stefano disponibile, hai capito? Andiamo un po' assieme. E due chiacchiere, fuori, all'aperto, una sigaretta, magari possiamo andare a prendere anche un digestivo in Piazza d'Italia, a qualche parte, a qualche bar aperto, capito? E poi ce ne rientriamo, qual è il problema? Ehi. Ma a me avevo dimenticato, sì, coperto, pizza, Beozia, e al limite un digestivo, ma un caffè è un digestivo, sì, molto bene, approfittatene finché ho i soldi, perché ho le mani che mi tremano, che mi prudono, sto cercando di non spendere, dai. Vai Natalino. Ehi, bisogna farlo, bisogna averti a tutti gli altri. Ah Natali, l'altra volta in quel, quando siamo andati in quel vicino a Bricomen, tu avevi una porzione enorme di roba frittura mista, patatine, cosa tu avevi? Infatti me lo sono guardato, sembrava, ho detto ma ce la fai a mangiarti tutto? Sì, un piatto composto era quello. Aspetta, sembrava più grande della pizza quasi. Io vabbè scelgo pizza perché vado sul sicuro, no? Di solito mi piace sempre, non mi delude mai la pizza. Se c'è me la faccio come l'altra volta, salmone e panna. Quando ci rientro io, adesso l'abbiamo fatto, questa settimana non mi tocca, la prossima ce l'ho. L'altro giorno facevamo rientro con il mio collega che è di venerdì e poi toccava lui sabato. Ho detto, ma noi ci andiamo a pranzo, tanto ci abbiamo i corsi, i ticket, allora io che ti porto io. Siamo andati lì allo Speed Day, a Pocanietta. Allora, con 5 euro pranzi, pizza, la pizza c'è a pranzo anche, la pizza a pranzo con 5 euro, pizza, acqua, caffè e un bicchiere di vino ti danno, con 5 euro. Oh, dove hai detto? Allo Speed Day, dove siamo andati noi, a Pocanietta, lì dove c'è il bricone. Ah, ma era un giorno particolare o cosa? Tutti i giorni a pranzo, allora se tu ti immagini che a pranzo lì, tutti i giorni la sala dei furi, quella coperta, non ci fai posto, tutto pieno di operai, di gente che deve rientrare al lavoro, eccetera. Con 5 euro pranzi, ma pizza, pizza grande, normale, come la vuoi, qualsiasi tipo di pizza, poi c'hai il caffè, la bottiglietta d'acqua gassata o naturale e un bicchiere di vino, 5 euro. Mi sa che ci vado domani. Altra bandiera gialla. Bandiera gialla allo stesso prezzo ti fa, cioè ti fa pagare 7 euro se non di più, 7 euro era anni fa, adesso saranno arrivati a 8. E forse anche di più. Buono facci, perché la pizza è pizza a pranzo. Mentre poi se vuoi altro è diverso, però c'è la pizza in offerta a pranzo tutti i giorni, 5 euro, con un bicchiere di vino rosso o bianco, oppure se non lo vuoi ti danno un bicchiere di birra, capito? No, l'acqua ce l'hai, l'acqua è compresa nella pizza, infatti io e mio collega ci abbiamo preso due pizze, due bottigliette d'acqua, due bicchieri di vino, poi siamo entrati dentro e ci hanno dato il caffè, oppure te lo portano a tavolino, non c'è problema. Buono a sapersi. Ottimo, ottimo. Un giorno che magari vogliamo mangiare una buona pizza fatta al momento, anche a mamma, per dire. Perché bandiera gialla è diventato troppo caro, mi dispiace, ma 8 euro, 9, chissà quanto è diventato per un pranzo, che era o pranzo o pizza anche lì. Va bene, buona sapersi, dai, quindi stesso posto dove siamo andati noi, ok? Sì, è buona, pizza buona. Ehi, ehi, ok. Bene, bene, io fra poco mi mangio frutta e verdura, frutta dolce. Ok, Natalì, rivai. Natalì non fosse andato a mangiare, sono le 8:30 passate. Sono le 9:25, dai. Calco anche io, ma se chiudo tutto qua, chiudo anche la finestra, domani è l'altro tempo brutto, allora sono uscito a portare il cane, sembrava un po' stellato, se non si sporca stanotte, sentiamo un po' di venticello, vabbè, dai Marco Ricchi e chiudo, ora avremo un po' di TV in attesa della cena, sono stanco morto anche lui. Domani è appena mercoledì, arriva sabato, ciu. Ciao Natalì, ciao a tutti quelli anche che sono in ascolto sul canale 10. Un saluto a tutti, buonanotte, buona cena per tutti e a domani. Eia, ciao Claudio, buon tutto, dai. Buona cena, buona visione di TV, vediamo cosa c'è stanotte di film. Ciao Natalino, se sei ancora all'ascolto, buona cena, buon tutto, a domani, ciao, ciao a tutti gli ascoltoni anche. Ciao Marco, a domani, ciao.